Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Walton. Continuazione. 26 agosto 1700. Ora, Margaret, che hai letto questa storia strana e terribile, non ti senti come me raggelare il sangue di un orrore simile a quello che ancora ghiaccia il mio? A volte, vinto da un'improvvisa angoscia, egli non riusciva a continuare il racconto. Altre volte la sua voce, rotta ma penetrante, pronunciava con difficoltà parole così piene di angoscia. I suoi occhi, belli e gentili, ora si accendevano di indignazione, ora esprimevano il più cupo scoraggiamento e una sconfinata tristezza ne spegneva la luce. A volte controllava viso e tono e riferiva gli avvenimenti più orribili con voce tranquilla, dominando ogni segno di agitazione. Poi, come un vulcano scosso da un'improvvisa eruzione, il suo volto prendeva a un tratto un'espressione di ira selvaggia ed egli imprecava all'indirizzo del suo persecutore. Il suo racconto è coerente ed è stato narrato con tutte le apparenze della più semplice verità? Non posso dubitarne, anche se la cosa desta in me profondo stupore e meraviglia. Talvolta ho cercato di ottenere da Frankenstein qualche particolare circa l'origine della sua creatura, ma su questo punto egli è impenetrabile. Siete pazzo, amico mio. Dove vuole condurvi la vostra insensata curiosità? Volete forse creare per voi e per il mondo un nemico infernale? A che cosa tendono le vostre domande? Lasciate stare. Imparate dalle mie sofferenze e non cercate di aumentare le vostre. Frankenstein ha scoperto che io ho preso appunti sulla sua storia. Mi ha chiesto di vederli e li ha corretti e ampliati in molti punti, specie per quanto riguarda le conversazioni che ha avuto con il suo nemico. Ha detto: dal momento che avete conservato la mia narrazione, non voglio che essa giunga ai posteri mutilata. Così è passata una settimana, mentre io ascoltavo il racconto più strano che mai immaginazione abbia creato. I miei pensieri e persino i miei sentimenti sono stati assorbiti dall'interesse per il mio ospite, dovuto tanto alla sua storia quanto ai suoi modi educati e gentili. Vorrei dargli sollievo, ma come si può consigliare di vivere a chi prova simile angoscia, a chi ha perduto ogni speranza? La sola gioia che può ancora attendere è quella di comporre il proprio animo straziato nella pace della morte. E infine ha detto: «Vi ringrazio, Walton, per le vostre buone intenzioni verso uno sciagurato par mio, ma quando parlate di nuovi legami e di nuovi affetti, credete davvero che possano sostituire quelli che non ci sono più? Può qualche uomo essere per me quello che era Clerval, qualche donna essere una nuova Elizabeth, anche quando gli affetti non siano fortemente suscitati da una superiore eccezionalità? I compagni di infanzia hanno sempre sul nostro animo una certa presa che gli amici di data più recente difficilmente possono avere. Conoscono il nostro carattere originale, che per quanto modificato non si cancella mai completamente. Possono giudicare le nostre azioni giungendo a conclusioni più certe circa la rettitudine dei nostri motivi. Un fratello e una sorella non possono mai sospettarsi l'un l'altro di frode o di falsità, a meno che tali sintomi non si siano manifestati fin dall'inizio, mentre un amico, per quanto affezionato, può suo malgrado essere guardato con sospetto, ma io ho avuto amici che mi erano cari non solo per la lunga abitudine e per la vicinanza, ma per i loro meriti, e ovunque io sia, la dolce voce di Elizabeth e la conversazione di Clerval mi sussurreranno sempre all'orecchio. Sono morti, e in tanta solitudine un solo sentimento può persuadermi a continuare a vivere. Se avessi da condurre a termine qualche alta missione o qualche piano tale da riuscire utile ai miei simili, allora potrei vivere per concluderli, ma questo non è il mio destino. Io devo inseguire e distruggere l'essere a cui ho dato esistenza e poi il mio compito sulla terra sarà terminato e potrò morire. 5 settembre. Cara sorella, si è svolta orora una scena di tanto interesse che non posso fare a meno di registrarla, anche se è molto probabile che queste carte non ti giungano mai. Siamo ancora circondati da montagne di ghiaccio e sempre ci sovrasta il pericolo di venire stritolati nella loro morsa. Il freddo è intensissimo e molte dei miei poveri compagni hanno già trovato la loro tomba in questa scena di desolazione. La salute di Frankenstein declina di giorno in giorno. Un fuoco febbrile gli accende ancora gli occhi, ma è esausto e al minimo sforzo che gli viene richiesto piomba in uno stato di incoscienza. Ho fatto cenno al timore di un possibile ammutinamento. Questa mattina, mentre osservavo il pallido aspetto del mio amico, fui chiamato da una mezza dozzina di marinai che chiedevano il permesso di entrare nella mia cabina. Li ricevetti e il loro capo mi si rivolse. Mi disse di essere stato scelto assieme ai suoi compagni dagli altri marinai per venire a rivolgermi una richiesta che in coscienza non potevo rifiutare. Eravamo bloccati nel ghiaccio e con ogni probabilità non ci sarebbe riuscito a scampare, ma temevano che se come era possibile il ghiaccio si fosse sciolto e avesse offerto un passaggio, io sarei stato così avventato da continuare il mio viaggio e da condurli in nuovi pericoli dopo aver così felicemente superato questo. Insistettero quindi che io mi impegnassi con solenne promessa a volgere subito la rotta verso sud nel caso in cui la nave fosse riuscita a liberarsi. Questo discorso mi turbò. Mai avevo disperato e mai avevo concepito l'idea di ritornare se mi fossi liberato dai ghiacci. Eppure era giusto o era mai possibile respingere quella domanda? Esitai prima di rispondere. A un tratto, Frankenstein, rimasto fino allora in silenzio e che pareva non avere la forza di prestare un minimo di attenzione, si riscosse. I suoi occhi scintillavano e le sue guance si accesero di un momentaneo vigore. Volgendosi verso gli uomini, disse: «Che cosa intendete? Che cosa chiedete al vostro capitano? Vi lasciate distogliere così facilmente dai vostri progetti? Non avete chiamato questa una spedizione gloriosa? E perché gloriosa? Non certo perché la via sarebbe stata calma e placida come nei mari del sud, ma perché sarebbe stata piena di pericoli e paure, perché a ogni nuovo ostacolo avreste dovuto fare appello alla vostra energia e mostrare il vostro coraggio, perché pericolo e morte vi avrebbero circondato e voi li avreste vinti e superati. Per questo era gloriosa, per questo era un'impresa onorevole. Sareste stati in seguito salutati come benefattori della vostra specie. I vostri nomi sarebbero stati onorati come quelli di uomini coraggiosi che erano andati incontro alla morte per il proprio onore e per il progresso dell'umanità. E ora, invece, alla prima prospettiva di pericolo, o se preferite di fronte alla prima terribile e grandiosa prova del vostro coraggio, indietreggiate e vi accontentate di essere additati come uomini che non hanno energia sufficiente per sopportare freddo e rischi. Povere anime! Avevano freddo e sono ritornate ai loro focolari domestici. Ma come? Non c'era bisogno allora di tanta preparazione. Era inutile spingersi tanto lontano per esporre il vostro capitano alla vergogna di un insuccesso e solo per dimostrarvi dei vili. Siate uomini, e più che uomini, siate decisi nelle vostre risoluzioni e saldi come roccia. Questo ghiaccio non è della stessa materia di cui possono essere fatti i vostri cuori, è mutevole e non può resistervi se voi vi opporrete. Non ritornate alle vostre famiglie recando sulla fronte i segni della sconfitta. Ritornate come eroi che hanno combattuto e vinto, che non sanno che cosa sia voltare le spalle al nemico. Parlò con voce così ben accordata ai diversi sentimenti espressi dalle sue parole, con occhi così accesi di nobili ed eroici propositi che non ti meraviglierai se ti dico che quegli uomini si lasciarono scuotere. Si guardavano l'un l'altro e non sapevano che cosa rispondere. Allora parlai io. Dissi loro di ritirarsi e di riflettere su ciò che era stato detto. Non li avrei condotti più a nord, se essi avessero davvero voluto il contrario, ma speravo che ripensandoci potessero ritrovare il coraggio. Si ritirarono e mi rivolsi al mio amico, ma egli era ripiombato di nuovo nel suo languore e appariva quasi privo di vita. Settembre. È finita. Tornò in Inghilterra. Ho perduto ogni speranza di onore e di gloria, ho perduto il mio amico, ma cercherò di narrarti in tutti i loro particolari queste amare circostanze, cara sorella. E mentre navigo verso l'Inghilterra e verso di te, non voglio disperare. Il 9 settembre il ghiaccio cominciò a tremare e udimmo in distanza rombi simili a tuoni mentre i blocchi si spaccavano e scricchiolavano in ogni direzione. Il pericolo era imminente, ma potevamo solo restare passivi, e io concentrai ogni mia attenzione sul mio sventurato ospite, la cui malattia si era talmente aggravata che era costretto a rimanere a letto. Il ghiaccio si spaccò dietro a noi e fu spinto alla deriva verso nord. Venne un vento da ovest e l'11 il passaggio verso sud era perfettamente libero. Quando i marinai se ne accorsero e si resero conto che il ritorno in patria pareva sicuro, si levarono tumultuose e prolungate grida di gioia. Frankenstein, che si era appisolato, si svegliò e chiese la causa di tutto quel chiasso. «Gridano!» dissi, «perché presto ritorneranno in Inghilterra!» «Tornate dunque davvero?» «Sì, non posso oppormi alle loro richieste. Non posso condurli incontro al pericolo contro la loro volontà, e devo ritornare. Tornate pure, se volete. Io non tornerò. Voi potete rinunziare al vostro scopo, ma io non oso, perché il mio mi è stato assegnato dal cielo. Sono debole, ma certo gli spiriti che mi assistono nella vendetta mi daranno energia sufficiente». E ciò dicendo, cercò di scendere dal letto, ma lo sforzo fu eccessivo e ricadde svenuto. Passò molto tempo prima che si riprendesse e più volte pensai che in lui ogni vitalità si fosse estinta. Alla fine aprì gli occhi, ma respirava con difficoltà e non riusciva a parlare. Il medico gli somministrò una pozione calmante e ordinò di non disturbarlo, e poi mi disse che certo al mio amico restavano solo poche ore di vita. La sentenza era stata pronunciata. Io non potevo altro che piangere e attendere con pazienza. Sedetti accanto al letto a vegliarlo. Aveva gli occhi chiusi e credevo dormisse, ma poco dopo egli mi chiamò con voce debole, mi fece cenno di avvicinarmi e disse: «Le forze su cui facevo affidamento sono svanite. Sento che presto morirò e il mio nemico potrà continuare a vivere. Non pensate, Walton, in questi ultimi momenti della mia esistenza io provi l'odio bruciante e il desiderio ardente di vendetta di cui vi ho parlato. Ma mi sento giustificato nel bramare la morte del mio avversario. Ho trascorso questi ultimi giorni a esaminare la mia passata condotta e nulla vi ho trovato di riprovevole. In un impeto di entusiastica pazzia ho creato un essere razionale ed ero vincolato nei suoi riguardi per quanto era in mio potere ad assicurarne la felicità e il benessere. Questo era il mio dovere. Ma ce n'era un altro, ancor più importante. I miei obblighi verso i miei simili avevano maggiore diritto alla mia attenzione, perché implicavano una maggiore quantità di felicità o dolore. Spinto da questa convinzione, rifiutai giustamente di dare una compagna alla mia prima creatura. Egli dimostrò nel male una malignità e un egoismo senza precedenti. Uccise i miei cari, si dedicò allo sterminio di esseri dotati di sentimenti squisiti, di felicità e saggezza, e non so dove questa sua sete di vendetta potrà ancora condurlo. Miserabile com'è, deve morire, perché non possa rendere nessun altro infelice come lui stesso. Era mio il compito di distruggerlo, ma ho fallito. Spinto dall'egoismo e da motivazioni ambigue, vi ho chiesto di portare a termine la mia missione rimasta incompiuta. Ora rinnovo questa domanda indotto solo dalla ragione e dalla virtù. Tuttavia non posso chiedervi di rinunciare al vostro paese e ai vostri cari per adempiere questa missione. E ora che state per ritornare in Inghilterra, avete ben poche probabilità di incontrarlo, ma lascio a voi riflettere su quanto vi ho detto e di decidere quali possono essere i vostri doveri. La mia facoltà di giudizio e le mie idee sono già ottenebrate dalle pressarsi della morte. Non oso chiedervi di fare ciò che io stimo giusto, perché potrei essere fuorviato dalla passione. Mi turba il pensiero che egli possa vivere per essere strumento di male. Le ombre dei miei cari aleggiano attorno a me, e io mi affretto fra le loro braccia. Addio, Walton. Cercate la felicità nella pace ed evitate l'ambizione, anche se si tratta di quella apparentemente innocente di distinguervi nella scienza e nelle scoperte. Ma perché dico una cosa simile? Io sono stato deluso nelle mie speranze, ma un altro potrebbe avere successo. La sua voce si fece via via più debole e alla fine, esausto dallo sforzo, tacque. Mezz'ora più tardi cercò ancora di parlare, ma non vi riuscì. Mi strinse debolmente la mano, poi chiusi gli occhi per sempre, mentre l'ombra di un sorriso gli passava sulle labbra. Margaret, come posso farti comprendere la profondità del mio dolore? Ma sono in viaggio verso l'Inghilterra, e forse là potrò trovare consolazione. Mi interrompo. Che cos'è questo rumore? È mezzanotte, la brezza spira lieve, la vedetta sul ponte si muove appena. Ancora. È un suono simile a quello della voce umana, ma più rauco. Viene dalla cabina dove ancora giacciono le spoglie del povero Frankenstein. Devo alzarmi e andare a vedere. Buonanotte, sorella. Gran Dio, quale scena si è svolta poco fa. Sono entrato nella cabina dove giacevano le spoglie del mio disgraziato e ammirevole amico. Su di lui era china una forma che non posso descrivere, gigantesca di statura ma grottesca e contorta nelle sue proporzioni. Quando udì il rumore dei miei passi, cessò di emettere esclamazioni di dolore e di orrore e balzò verso il finestrino. Io mai vidi cosa più orribile del suo volto, di una bruttezza che pur nella sua ripugnanza affascinava. Gli gridai di fermarsi. Si bloccò guardandomi con stupore e poi, volgendosi verso il corpo senza vita del suo creatore, parve dimenticare la mia presenza, e ogni suo allineamento e ogni suo gesto sembrarono ispirati dalla furia selvaggia di una sfrenata respirazione. Ecco la mia ultima vittima. Questo delitto è il compimento dei miei crimini. Oh, Frankenstein, a che vale ora che io ti chieda perdono? Mi avvicinai a quell'essere terribile. Tentai di parlare, ma le parole mi morirono sulle labbra. Alla fine trovai il coraggio di rivolgermi a lui e dissi: il tuo pentimento ora è inutile. Se prima di spingere la tua diabolica vendetta fino a questo estremo avessi ascoltato la voce della coscienza e ceduto agli stimoli del rimorso, Frankenstein sarebbe ancora in vita. E il demone disse: state forse sognando? Credete che io fossi insensibile all'angoscia e al rimorso? Ma non cerco chi possa comprendere la mia felicità. Non ne troverò mai. Quando la cercavo, desideravo essere partecipe di quell'amore per la virtù e di quell'affetto di cui tutto il mio essere traboccava. Ma ora che la virtù è diventata per me un'ombra, ora che felicità e affetto si sono trasformati in disgusto e amara disperazione, dove dovrei cercare simpatia? Sono contento di essere solo a soffrire finché durerà la mia sofferenza, E mi sta bene che quando sarò morto, orrori e opprobrio peseranno sulla mia memoria. Un tempo la mia fantasia si trattava di sogni di virtù, fama, gioia. Mi nutrivo di pensieri di onore e di devozione, ma ora i miei crimini mi hanno messo più in basso del più spregevole animale. Non si possono trovare crimini, errori, malvagità, miserie paragonabili ai miei. Quando passo in rassegna la serie spaventosa dei miei peccati, non posso credere di essere colui e quei pensieri un tempo erano pieni di sublimi visioni della bellezza e grandezza del bene. Ma è così. L'angelo caduto si è trasformato in un demone maligno. Eppure anche quel nemico di Dio ha amici e compagni nella sua desolazione. Io sono solo. Voi che avete chiamato Frankenstein amico, sembra che sappiate dei miei delitti e delle mie sciagure, ma nel resoconto che egli ve ne ha dato non può avere reso il conto delle ore e mesi di angoscia che io ho dovuto sopportare torturandomi in passioni impotenti, perché mentre distruggevo le sue speranze non davo soddisfazione ai miei desideri. Sempre essi erano vivi e ardenti, bramavo amore e amicizia e ogni volta ero ripudiato. Non era ingiusto tutto ciò. Solo io devo essere giudicato criminale quando tutta l'umanità ha peccato nei miei confronti. Perché non esecrate il vile che ha cercato di annientare colui che aveva salvato sua figlia? No, quelli sono esseri virtuosi e senza macchia, mentre io, miserabile reietto, sono un aborto da respingere, da prendere a calci, da calpestare. Anche ora il sangue mi ribolle al ricordo di questa ingiustizia. Ma è vero, sono un disgraziato. Ho assassinato creature buone e inoffensive. Ho strangolato innocenti mentre dormivano. Ho stretto fino a cavarne la vita la gola di chi non aveva mai fatto male a me o ad anima viva. Ho condannato alla disperazione il mio creatore, modello di tutto ciò che fra gli uomini è degno di amore e di ammirazione. L'ho perseguitato fino a questa irrimediabile rovina. Eccolo, giace là bianco e freddo. Voi mi odiate, ma il vostro disprezzo non può eguagliare quello che sento per me stesso. Guardo le mani che hanno eseguito questi misfatti, penso al cuore che li ha concepiti e bramo il momento in cui i miei occhi non potranno più vedere le mie mani, in cui il mio cuore non ossessionerà più i miei pensieri. Non temete che io possa essere lo strumento di futuri misfatti. La mia opera è quasi compiuta. Né la vostra morte né quell'altrui sono necessari a coronare la mia esistenza e adempiere il mio destino. Basta solo la mia. Lascerò la vostra nave sul banco di ghiaccio che mi ha portato fin qui. Raggiungerò l'estremità più settentrionale del globo. Erigerò la mia pira funebre e ridurrò in cenere questo miserabile corpo perché i miei resti non possano illuminare il disgraziato, curioso ed empio che avesse in animo di creare un altro essere come me. Morirò, non sentirò più le angosce che ora mi consumano, né sarò preda di passioni insoddisfatte e indistinguibili. Morto è colui che mi ha chiamato alla vita, e quando anch'io non sarò più, il ricordo di entrambi svanirà rapidamente. Luce, sentimenti, sensazioni scompariranno, e in questa condizione troverò la felicità. Addio, vi lascio, e in voi scorgo l'ultimo essere umano che i miei occhi vedranno. Addio, Frankenstein. Se ancora fossi in vita e ancora nutrissi desiderio di vendetta contro di me, soddisfereste la tua brava lasciandomi in vita piuttosto che distruggendomi. Ma tu hai cercato la mia morte perché io non potessi provocare maggiori sciagure. Per quanto straziato tu fossi, i miei tormenti furono maggiori dei tuoi, perché l'amaro pungolo del rimorso non cesserà di tormentare le mie ferite fino a quando la morte non le chiuderà per sempre. Ma presto morirò, presto non soffrirò più quello che soffro ora. Salirò trionfante il mio rogo funebre ed esulterò nello strazio delle fiamme che mi divoreranno. Il mio spirito riposerà in pace e, seppure penserà, sarà certo in modo diverso. Addio. Così dicendo, balzò dal finestrino sulla lastra di ghiaccio che galleggiava accanto alla nave. In breve fu spinto lontano dalle onde e scomparve lontano nell'oscurità. To fair ray, that delicate satin draped frame, as it clung to her thigh, how I started to cry, 'cause I wanted to be dressed just the same. Give yourself over to absolute pleasure. Swim the warm waters of sins of the flesh. Erotic nightmares beyond any measure. And sensual daydreams to treasure forever. Can't you just see? Yeah. Oh, oh, oh. Don't dream.